la guardia costiera, poi c'erano la polizia, i carabinieri, i vigili urbani, l'Avis, i Barracelli, c'erano tutti in piazza, che non stavano i loro mesi. Sul periodo, non so cosa ci sarà il 1° maggio, credo ci sia qualche complesso, non so, stanno organizzando di fare qualche complesso, boh. Il 1° maggio è la festa del lavoro. Allora, i sindacati facevano in corso vicino all'ippodromo, gli altri anni facevano il pranzo. C'era il pranzo per tutti i lavoratori gratis, c'era agnello, porcetto, questo e quell'altro. Non lo so già, mi viene quando capita, quando capita il 1° maggio? Non lo so che giorno è, devo controllare, non lo so che giorno è, però sarà una domenica penso, non lo so. E comunque in ogni caso fanno sempre, i sindacati fanno questo affare qua. Penso se ci sia tutti gli anni, però io per 2 anni di seguito sono andato. Ecco, avanti, Benito. Sì, mi sto guardando il microfono, ancora non sta andando. No, quanto è uscito bene, poi non so già come lo sente a Benito. Bene, bene, adesso va bene. Positivo, va. E cosa era? CRC ci voleva. No, sta cazzo, ho attaccato la batteria, ho visto che era un po' mezzo scarica, ma non si sa. Magari c'era ossido, e chi lo sa, perché facevo come se fosse una scossa elettrica. Capace che era attaccato male, si muoveva e faceva quella fatica. Bene, tutto a posto, sì. Sì, non lamentiamo, sì, non diciamo niente, non va. Vabbè, lo so che per quella questione lì è critica. Per il resto tutto a posto, sì, famiglia tranquillo, sì. Sì, quello di a posto. Sì, quello che non è a posto, ciccia. È una voce ricca, oh già. Yeah. Ma che sei a casa adesso? Sì, adesso sì. Ah, scappa. Non pensavo che eri... che stavi travaccato. No, non di sabato non lavoriamo. Non ho lavorato. No, ma mi è sembrato di qualche cosa, il giorno festivo avevi lavorato, no? No, sono il giorno... come dici? Il giorno della festa, noi lavoriamo lo stesso, il giorno della festa di Sacra, là il patrono. Ah, scatta, io ho capito. Oia. Vabbè, ragazzuoli, io vi saluto, dai, mi faccio un paio d'ore di sonnellino e ci sentiamo presto, dai. Volete per me, dai. Ciao. Così un paio d'ore. Ciao Giuseppe, ci sentiamo. Avanti Gigi. Giuseppe, ciao, che stavo saldando una cosa, stavo, ero impegnato un po'. Ti volevo chiedere una cosa, Gigi. Per quel Micra che ho io in macchina, 34, per fargli fare qualche modifica, quanto mi vorrebbe costare, Gigi? Ma cosa vuoi fare? Cosa ti serve? No, io lo voglio, capito, capisci tu a me, aumentare un po' di watt e di qualcos'altro, capito? Dipende da quante cosa ci voglio mettere dentro. Quello sto dicendo, cosa vuoi fare tu, perché c'è un Midra un 34 e se c'hai. Capa. Mi fa 120 canali, la camera ecco, e basta gai. Ah, c'è a perdere che ci vogliono soldi, no, che non conviene. E lo so, è quello che volevo chiederti, quello lì. Quanto è la spesa per fare tutta quella roba lì, Gigi? Soldi, secondo me non ti conviene farlo, secondo me. Poi vedi un po' tu, perché... E ho 34, se vuoi farlo a 40 canali, mi ha cambiato. biglietto costava 20 euro, 20-25 euro con staffa, oggi è minimo una buona costa una trentina, il suo coso, più la mano dopo a cambiartelo, poi a cambiare la scheda 120 per fare se vuoi canale sopra e sotto, e per una 50 euro, sto già a 70 euro, poi no, se devi cambiare, mettere più watt una cosa te ne prenderà altri 25-30 euro e ti verrà questa per i 32 euro. Il fatto che per andare in canale sopra, quello lì è già stato modificato, capito Gigi, però volevo farlo di potenza, capito, aumentarlo di potenza, perché quel lavoro lì di Manalastra gliel'ha già fatto, capito, sotto e sopra, gliel'ha già fatto il canale, capito? Chi l'ha fatto? Eh? Chi gliel'ha fatto? Allora, quell'apparecchio me l'ha regalato Giulio Dollaro, che era già fatto, capito? Me l'ha già detto, dice guarda che questi canali sono già fatti. Dunque, se lo vuoi aumentare di potenza, devi spendere qualcosa in più. Sì, ma bisogna vedere, ascolta, non so se intendi dire perché c'è da fare una modifichetta, c'è i canali sotto, e ti aumentavo i canali sotto, hai capito? Però non lo so se è fatta quella modifichetta solo se c'è la scheda, capito? Non penso ci sia la scheda. No, scheda non ce l'è, no, scheda o niente. Ha fatto solo un punticello e gli ha detto che c'erano anche per andare sul 45, hai capito? Puoi andare sotto, puoi andare in canale sotto, vai. Capa. Passa Gigi e tutta la ruota. Gigi. Bea. Scusi, adesso. Sì, chi è? Garzon. Luca, ma che cosa stai facendo? Ancora qua, sì. Ascolti che ci metti 5 minuti a scaricarti. Ma stamattina sei ancora qui. Roba di carpenteria, va. Sono arrivati quasi mezzo giorno. Che cavolo. E adesso sta andando via. Ancora no, sono andato un curreale, sto andando a prenderlo a Porto Torres. Positivo, positivo. Poi quello che avevo io, quel baracchino, fai il ponticello e c'hai i canali sopra e sotto, sai? Cosa c'avevi tu? Cosa c'avevi tu? Che baracchino c'avevi tu? 48 kg, è uguale a quello che sto dicendo il collega. Ma cosa stai dicendo? Sei fuori pista? Che totale, il 48 ce l'hai presente, il vecchio modello, come si chiama? Il 68 c'ha lui, mi. Sono il 68, l'ora 68. E così come mi senti, Gigi? Come ti sento così? Eia, questo com'è? Va bene. Che cappa, non hai conosciuto qual è questo? Non è il posto. No, questo è il grande. MC60, non lo senti? Cosa è l'MC60? Questo microfono. Cos'è questo microfono? MC60. Era nel 140. Eia. Non si sente la differenza dall'altro? Una cosa solo con Claudio si sente la differenza. Solo con Claudio. Passa la radio, ma io l'ho ascolto basso. Aumenta, fagliela sentire la differenza, Benito, aumenta. Adesso è fredda ancora. Ehi capo, quello già è vero, perché non l'aveva acceso dall'inizio, dai. Già arrivo bene, io già la sento. Sensibile, ma la radio non è forte comunque. Positivo, la fai acceso, ancora come ha detto Gianni, deve ancora scaldare, questi devono scaldare. Io vedo già 9.15, sì. Vabbè, come mi senti, l'amico? Non mi ricordo come ti chiami, buonasera, doppio lunga questa parte. Vabbè, come mi ascolti in radio? Sempre il posto, doppio lunga, fa quasi a Porto Torres, va bene. Abbiamo lo stesso apparecchio di Benito. E a me come mi accoppi, Luca? Come mi accoppi a me? Ma che c'ho, se c'ho una cabina, boh. E caparoglio, perché sono appresso a te, visto dietro di te? Ti appresso a me, ma sei in BM. L'angelo custode sta facendo. accendo lì. E io come ti arrivo lì, dopo essere le tue coordinate, come ti sono arrivato? Cambio. La radio è distesa, oscillante, dai, però è basso. Effa. Strano, non lo so perché sia così bassa, Basta, non è squillante, come ti arriva il DC, capito? Hai capito cosa voglio intendere? Figa, cappa. E io, Gigi, come ti sto arrivando lì alle tue coordinate? Cambio. Vabbè, se la parli di bene, io ho l'antenna alta e a chi ha tutti io da qua. Allora, sei al tuo QTH, il tuo piccolo QTH? Cambio. Positivo, sono nel mio possesso, nel mio garage. Perché fischia quando gliela metto sopra? Devo rimanere abbassato. Come sta arrivando? 9.30 fischi positivi qua, Gigi, No, perché questo spinge, quando va a casa, questo è modificato e per quello che arriva così. Io qua a casa lo sai cosa sto usando, sì, già riconosciuto cosa è, no? Io a casa mia ultimamente mi tutte le cose di tutti, io non so cosa stai uscendo tu. Non me ne ricordo, Giuseppe, io non mi ricordo neanche di come sto uscendo io adesso. Questo è il garage 2, hai capito? Ah, ma questo è il brutto 2, il brutto, il cagnolino brutto, bravo, che c'ha l'eco è spento, e gli occhiali dove sono, dove l'eco è quello qua, cambio. Mi manca te ne vai, eh. Questo è il brutto, capisci, Luca, Aquila Rossa, cambio. Ragazzuoli, fate due buone, state tranquilli, Gigi abbassa un po' di potenza, passate buona serata a tutti quanti, dai, ci risentiamo tutte le prossimine, ciao, volenti per me. Ciao Giuseppe, buon riposo, cazzo 2 ore te ne fai. Giuseppe, buon riposo, dai, buona serata, ciao. Ieri Luca qua riposano tutti, invece di atterrava non riposa nessuno. Ehi, gamba Roger, ma quindi Marco di 68 ci vuole la scheda, non è come quello che stava dicendo il collega, perché il blues ce l'ha già il contatto, il coso dentro, capito? Ti fa il ponte, quello che ho venduto io, il 48 blues, io fa il ponte con un chilo, arriva a 400 canali per lui. No, lo so, ce l'ha Gianni, mi pare Gianni, tu ce l'hai doppio ru, quello lì mi sembra. Ehi, ma non l'ho mai modificato, non l'ho mai toccato, è sempre originale. Quello è un ponte da toccare, non devi fare altro, c'è 400 canali, Ma tu il cuore di 40 canali normali ce l'hai. Ho sentito dire che erano 400 canali, non l'ho mai toccato perché c'era un'innovazione, questo qua e l'ho lasciato così. È positivo, però quando ti capita le cose basta qualcuno lì che lo potrebbe fare, forse Adriano Fabrizio. Brava. Io prima mi devo mettere a posto questo pezzo di antenna che mi sta girando le palle, ogni tanto per vedere quello della mansarda con lo radiale in mano, cazzo. Positivo, Tu Gigi non hai combinato niente. Ecco, non ho combinato niente, ho mangiato, pranzato, tranquillo e sto a una meraviglia. Ieri, no, vabbè, il lavoro di... No, ho combinato tutto sabato, io scorso. Lavorato sabato scorso? Tutto lavorare seduto in tavola. Io ho fatto ma cosa, perché cosa stanno facendo questa protesta i tir sulla superstrada? Per il caro prezzo che no, che le ditte non pagano, e non pagano il trasporto, no, tante cose, tante tasse, il gasolio è aumentato e non ci stanno dentro più qualcosa, capito? E niente, tutto per questo qua, perché diciamo chi ordina la merce, la cosa, i trasporti poi non paga, non paga, e invece di pagarli a 90 giorni, a 60 giorni o 30 giorni, non ne paga né 120, e no, è un casotto, la vita. E poi tutta una catena, cioè non pagano loro, non pagano gli autisti, non pagano a chi lavora. Io un casino, un'organizzazione adesso lì alla Sisa a Muro, so che non viene bene a dire, ma uno proprio organizzato a perfezione. È una cooperativa, sta organizzando number one. Sì, ma stavo dicendo quelli che ci sono lì. Guarda, dice, dopo che fini, tu dice, dopo che inizi, che è finito di scaricare, ci faccio altre 2 ore. Ma quando devi spuntare tutta la merce, prima quando entri e poi nuovamente quando esci. Dice, guarda, dice, ci devi stare, dice, una giornata per scaricare. È una cooperativa che c'era la baita prima. Prima andate tutti a zappare la terra. La cooperativa che c'era la barilla prima, sono pignoli, addirittura i lacci dei roll mi contano, se dovessi trovare un laccio che manca lo devi segnalare subito, se altro lo addebitano a te, figurati a che punto sono. Non so, perché intanto ci sono gli operai, ci sono quelli che c'erano prima, lo so, me lo stanno dicendo loro, è per fortuna che c'è questa crisi, che non c'è il lavoro, che c'è poca cosa, se sarebbe stato il movimento che c'era qualche anno fa, qua sarebbe stato invece alla rovina. E perché hanno un modo diverso di lavorare, capisci? Una ditta di furie, di Bologna, dei pane, roba del genere, e comunque paga bene. Hai capito? E cosa è? Ho capito cosa fa? Che paga bene. A chi paga bene? Questa ditta. Paga bene a chi però? Lo fai. A questa ditta c'è gestione tutto adesso, capito? Tra gli autisti che mi pare che c'erano del CD ancora, tutti gli altri, i preparatori, tutti quelli dell'ufficio, tutti quanti c'è da questa ditta qua. E comunque il problema è questo sciopero, che tu hai detto lo sciopero, anche per quello, perché ti fanno stare ore agli scarichi così, no? Allora viene, tu c'hai un appuntamento alle 2, va bene, te lo fanno appuntamento alle 2, tu dopo le 2 ore, dopo le 2 ore devi scattare il fermo macchina, capito? Questo stanno scioperando, però quella gente gli sta bene, perché loro se ne fottono adesso, hai capito? Così pagando il fermo macchina, quando arriva la merce pagano il fermo macchina, che loro se la tengono a disposizione tutta la giornata lì, allora vedi che se iniziano a pagare il fermo macchina, vedi che le scariche fanno in fretta a fare le cose. Io mi ricordo che quando venivano da noi a Capannone ci mollavano il rimorchio, se ne andavano, noi lo scaricavamo, poi quando ritornavano lo trovavano bello vuoto e se lo portavano via. Adesso ti danno l'appuntamento, tu ti dico alle 2, va bene, se alle 2, alle 3, alle 4, quello che è. E vai lì e cosa succede? Vai lì e dico una volta che devi fare tutto lo spensionamento, le cose, sì, è tutto giusto, va bene, devi passare un trappato, devi stare, dopo che è finito, ci devi stare altre 2 ore. Dopo che è finito di scaricare, devi stare altre 2 ore. Autista, per quale motivo? Per controllarci la roba. Devi passare, prima che te l'hanno controllato i magazzinieri che ti hanno scaricato, devi passare tutto da un'altra parte nuovamente, capito? Capito? È un casino. Comunque questa storia di far aspettare gli autisti, ma non ricordo che c'era anche da noi. Prima facciamo il nostro lavoro e poi facciamo quello degli altri, così diceva il principale. Positivo, però questo sciopero va anche per questi che fanno così, hai capito? Prima non sono lavoro perché gli altri non stanno lavorando, gli altri stanno rapido secondo loro. Ma per dire, qui prendiamo i magazzini, che prendiamo la roba nei negozi, capito? Se i negozi non hanno la roba non lavorano, quindi prima dicevo affidiamo quello che stavo facendo e poi li facciamo scaricare. Sono quelli addetti agli scarichi, ci sono quelli addetti agli scarichi, dovranno andare lì a modulo, ci sono quelli addetti allo scarico, ecco, ti danno un orario, ecco, quell'orario, ti ha dato un orario, ecco, io vengo a quell'ora lì, se vengo prima ti ho permesso, lì per i fatti miei, ed è colpa mia, se vengo tardo è colpa mia, se vengo tardo è saltato, però se io vengo in orario, sono lì in orario perché devo starci 4 ore. Quello è... Vabbè, se stai 4 ore non è poco per fare tutta la giornata, ci metti poco, vai due posti e finito. Non hai fatto neanche un viaggio, non hai fatto nulla, ecco, e ci hai messo un giorno per scaricare questo rimorchio, e non va bene, non mi sembra che sia giusto, capito? E non è giusto, no. Non è giusto. Anche io l'altro giorno sono andato lì, dovevo caricare, mi hanno mandato da un posto all'altro, un casino, guarda, prima mi hanno mandato l'ortofrutta, poi mi hanno mandato dall'altra parte. Meno male che poi io sono andato in ufficio c'è un amico che ci lavora e gli ho detto Marco così così e mi ha detto aspetta che chiamo il magazzino e ti faccio scaricare. Ma dove si parla a Mulos? Al Cilie. Beh, così dico, e mi sa che scuole vanno da una parte all'altra, però me lo caricano per voi che non caricate sopra, perché scarichiamo le caricate o giù sotto sotto, o se no quello che c'è come sale di dietro di dritto. Beh, mi pare che devi caricare, se è frutta, roba così e su. Che sotto c'è adesso? Sotto c'è la carne, i freschi sono sotto. Io sono mai andato, dico la verità. No, io non so. Quindi che ci vado poco, non è che. Guarda solo quando ci sono corsi urgenti e basta. È positivo, deve fare l'ingresso. Per entrare. No, io passo dritto lì. No, guarda, le dice, già ti fermi, non è che passi dritto, perché dritto non entri più. Non mi fermano, e poi mi fanno di andare. Ogni volta che io entro con il furgone mi fa vai, mi atta la sbarra e io passo dritto. E quello della Sisa si passano, capito? Passano dritti, sì. Beh che non mi fanno aspettare nulla lì. Invece il mio collega si è lamentato che dice che mi hanno fatto aspettare, che dice quando vengono qui a scaricare non li faccio aspettare mai, invece lì mi hanno fatto aspettare che scaricassero gli altri cani. Così ti dice che ne sono? Già lei 4 e un quarto sono. Infatti adesso sono a prepararmi che mi tocca a me. Oggi già sono all'aria aperta. Questa roba è. Ciao Gigi, ci sentiamo là, certo ti ciao Benito, ti dà ti ascolto. Quello ti fermerà che devo andare a combattere.